Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelly. Dunque, per la parte europea, l'avete sentito poco fa da Maria Piera Cece, Juncker sprona i 28 a fare di più sul piano dell'immigrazione. Allora andiamo dritti a Bruxelles con Sergio Nava. L'incontro di cui tanto si è parlato in queste giornate è previsto per le 16. Quali le anticipazioni? Sì, buongiorno da Bruxelles, vertice europea al via, ormai questo pomeriggio qui al Justus Lipsius. In primo piano, come dicevate, l'immigrazione, ma per cominciare vi segnaliamo subito la prima stoccata lanciata proprio da Bruxelles contro la legge di stabilità italiana. A lanciarla è stato il falco Dombrovskis, vicepresidente eletto della Commissione europea, che ha dichiarato: normalmente la Commissione consiglia agli Stati di spostare il peso della tassazione dal lavoro a consumi, proprietà o capitali, e l'azione intrapresa dal governo italiano non va in questa direzione, quindi dovremo discutere con loro le ragioni e le potenziali implicazioni. Così Dombrovskis, a chi gli chiedeva poco fa cosa pensasse dell'abolizione della tassa sulla prima casa. Torniamo ora al summit con i suoi temi, perché in primo piano appunto c'è l'immigrazione e con i rapporti con i paesi terzi a farla da padrone. Sotto i riflettori il piano proposto dall'Europa alla Turchia per cooperare. Ankara resta fredda, chiede più soldi oltre alla creazione di una zona cuscinetto nel nord della Siria, eventualità quest'ultima però osteggiata dalla Russia. Sul tavolo pure il rafforzamento di Frontex, con la possibile creazione in futuro di veri e propri corpi di guardie di frontiera europei. Questa mattina il presidente della Commissione Juncker, lo dicevate poco fa, è tornato ad attaccare gli impegni finanziari presi e ancora non mantenuti dai paesi membri. Più defilate invece oggi a Bruxelles la questione della riforma dell'Eurozona, di cui si tornerà a discutere a dicembre, e anche le trattative tra Europa e Gran Bretagna in vista del referendum britannico sul dentro o fuori dall'Europa. Da Bruxelles è tutto. Grazie a Sergio Nava. Adesso andiamo a Expo 2015, 15 giorni alla chiusura. Oggi è stata una giornata decisamente europea, con l'attesa di 4 commissari, una sorta di sintesi di questo semestre europeo all'interno dei mesi dell'Expo. Federica Frola. Sì, mancano appunto 15 giorni alla fine di Expo 2015 e l'Unione Europea fa il punto sui risultati ottenuti. Il comitato scientifico costituito dall'Unione in occasione di Expo presenta alle istituzioni europee le conclusioni del dibattito di questi 6 mesi. Partecipano a questa giornata anche 4 commissari europei: Phil Hogan per l'agricoltura, Vytenis Andriukaitis per la salute, Carlos Medas per la scienza e l'innovazione e Neven Mimica per lo sviluppo e l'organizzazione. Il primo traguardo raggiunto è sicuramente l'aumento della consapevolezza sui grandi temi di Expo 2015, dall'agricoltura alla sicurezza delle risorse alimentari, e proprio in queste ore si sta discutendo sulla necessità di rispondere alle grandi sfide producendo il cibo necessario per tutti. Sono state quindi stilate 4 raccomandazioni conclusive che portano verso la sostenibilità non solo dal punto di vista etico, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico e sociale. E il tema è proprio quello della ricerca e dell'innovazione. Per Franz Fischler, presidente del comitato scientifico, bisogna intensificare la ricerca e la cooperazione e ci vuole un maggiore impegno sociale e politico oltre che una struttura internazionale. E inoltre, mentre a Bruxelles i leader europei si incontrano oggi nel vertice sulla migrazione, il commissario Andriukaitis, coinvolto nell'organizzazione per il controllo della sede dei profughi, è intervenuto a Milano proprio su questo tema. Secondo le valutazioni del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ha detto Andriukaitis, il rischio di contaminazione ed epidemie è davvero basso. Grazie a Federica Frola in diretta da Expo, e con questo è tutto per questa edizione di Europa 24. La linea naturalmente a tutti i convocati, noi ci risentiamo domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.